Buonasera. Siete pronti per la parola di Dio? Io parlo un poco italiano, parlo calabrese veramente, ma allora lei mi aiuta? Mi aiutare? Sure. Great, thank you. Well, it's great to be with you tonight. È così bello essere qui questa sera. And I want to introduce to you my beautiful wife. E voglio presentarvi la mia bellissima moglie. She's from Sweden. Lei è dalla Svezia. And we met in India. E noi ci siamo conosciuti in India. And we were doing missions on a team together. E stavamo lì per una missione con un team. And as soon as I saw her, I was interested. Nel momento in cui, dal primo momento in cui l'ho vista, chiaramente mi sono interessato. And I began to study her. E quindi ho incominciato ad analizzarla. And one day, her and this other Swedish man, they led the chef to Christ. E un giorno ho visto lei che con un suo amico svedese hanno guidato uno chef ad accettare Gesù. And when they prayed for him to receive the Holy Spirit, e quando hanno pregato per questo chef affinché potesse ricevere lo Spirito Santo, he began to speak in other tongues. Lui da subito ha incominciato a parlare in nuove lingue. And his false teeth went right into the curry. E ha perso praticamente tutti i suoi denti che sono andati a finire nel curry. I denti falsi. La sua dentiera, chiaramente. I just want to clarify that. And right away I thought, I want to marry this girl. E da subito ho pensato, io devo sposarla questa ragazza. So I went close to her. E quindi mi sono avvicinato a lei. And I put my feet on her feet. E le ho calpestato il piede. Because the Bible says, perché la Bibbia dice, every place the soles of your feet tread upon, I've given you. Qualsiasi posto che la tua pianta toccherà sarà tuo. And 9 months later, e 9 mesi dopo, I was still chasing her. Io stavo ancora corteggiandola. And she wanted nothing to do with me. E lei proprio non ne voleva sapere. And sometimes I still wonder. E alcune volte, tuttora, un po' mi domando. And we finally got engaged in Nigeria. Ma poi in Nigeria finalmente ci siamo fidanzati ufficialmente. We got married in Sweden. Ci siamo sposati in Svezia. We have 4 children. Adesso abbiamo 4 figli. 3 boys. 3 maschi. 1 girl. E una femmina. And we pastor a church in Calgary. E siamo pastori di una chiesa in Calgary. And I feel the same spirit with what's here. E io proprio mi sento accomunato dallo stesso spirito che c'è qui. You got a great spirit in this church. C'è un grandioso spirito qui in questa chiesa. And if you want to do a great work for God, you got to have a great spirit. E se vogliamo fare grandi opere per Dio, dobbiamo avere questo spirito. So we love your pastor. E quindi proprio noi amiamo il vostro pastore. I've only known him for 2 days. Lo conosco solo da 2 giorni. But we've fallen in love with your pastor. Ma ci siamo innamorati. We're gonna bring him to Canada. E vogliamo portarlo in Canada. We're gonna do a switch. Vogliamo fare tipo uno scambio. We're gonna come here for a while. Noi veniamo qui per un po'. And you take my church. E il pastore Mirko va nella loro chiesa. Oh, ma chi dice? Oh, perché? And anyway, it's great to be with you. È comunque così bello essere qui. Well, that is our story. Beh, questa è la nostra storia. In a nutshell. E in poche parole. Well, isn't it wonderful to have a God that is chasing us? Non è così meraviglioso avere un Dio that never lets go, che ci cerca, che non ci lascia mai andare? Jesus is so in love with Mondungia. Gesù è Modugna. Così innamorato Modugna. Di Modugno. Modugno. I gotta get it right. Devo dirlo bene, Modugno. Modugna. Modugno. Modugno. Modugno. Did you know that Jesus is in love with Modugno? Lo sapevate che Gesù è innamorato di Modugno? I don't think you understood that. No, penso che non avete capito bene. But I can tell that he's doing something in your city. Ma io posso vedere che è ovviamente Dio all'opera nella vostra città. È meraviglioso. What a season you have ahead of you. Che grandiosa stagione abbiamo dinanzi a noi. That something that happens when you lean in to what God is doing on the earth today. perché qualcosa succede quando noi siamo protesi verso quello che Gesù sta facendo su questa terra. He is calling you. E lui ti sta chiamando. To no longer be on the edge. A non fermarti sull'orlo. But lean in to what he's doing. Ma a protenderti verso quello che lui sta facendo. He wants to show himself real in your situation. Lui si vuole mostrare vero e reale nella tua situazione. He wants to show himself real in your family. Lui si vuole rivelare nella tua famiglia. He wants to show himself real in your finances. Lui si vuole rivelare in maniera vera nelle tue finanze. So we have great expectancy to hear what God is going to do in Mondonio. E quindi noi siamo in grande aspettativa di vedere quello che Dio sta per fare a Modugno. We love you. E vi vogliamo bene. Amen. I'm going to go with this morning's message. I changed it. Sorry. All right. Now you know why I married her. Adesso lo sapete perché l'ho sposata. She's a better preacher than me. E lei sa predicare meglio di me. And she's a great team builder. E lei è una donna che sa edificare e mettere insieme team. Fantastic. Meraviglioso. Okay, I didn't know what I was going to preach tonight. Ora io non ero molto sicuro su quello avrei predicato questa sera. I preached a message this morning and I was thinking of doing something different tonight. Ho predicato un messaggio questa mattina e stavo pensando di fare qualcosa di diverso But questa sera. I really feel it's a message for the church. Ma io proprio credo che quello di stamattina è un messaggio per la chiesa. And how many were not here this morning? Quanti di voi non erano qui questa mattina? Okay. I'm going to preach this morning's message. Benissimo. Allora predicherò il messaggio che abbiamo condiviso stamattina. And so I want to share with you a story to begin with. E quindi vorrei condividere con voi una storia per iniziare. And it's about a man by the name of Stephen Sasson. Ed è la storia di un uomo che si chiama Stephen Sasson. He was a researcher and developer for Kodak cameras. Lui era un ricercatore per la compagnia che conosciamo Kodak. And in 1973 he invented the first digital camera. E nel 1973 lui ha inventato la prima macchina fotografica digitale. And he brought all the bosses of Kodak into a room. E quindi ha riunito tutti i capi della Kodak in una stanza. And he took a picture. E ha scattato una foto. And then he uploaded it to a TV. E poi l'ha caricata su uno schermo. And he said, "Look at the photo." E ha detto, "Guardate la foto." This is 1973. E qui siamo nel 73. And then he said, "This is so amazing." E poi ha detto, "Questo è così fantastico." We can even send photos through the telephone lines. Noi possiamo anche inviare delle foto attraverso la linea telefonica. And we can send photos around the world. Così da poter mandare le foto attorno al mondo. And all the bosses said, "That's stupid." E tutti i capi erano un po', ma no, ma è una cosa stupida. Ma tu sei pazzo. You know, I know just enough calabrese to be dangerous. Conosco giusto quel po' di calabrese per essere un po' pericoloso. Yeah, very. And I don't know if they're good words or bad words. E veramente non lo so se sto dicendo delle parole buone o delle parolacce. So I was with your pastor. I said, "Is this a good word?" E quindi ero con il pastore e gli ho domandato, ma questa parola si può dire sì o no? No, meglio che non la dici. I got to be very careful. E quindi insomma devo stare attento. So they said, "This is stupid. Who wants to watch pictures on a screen?" E quindi questi capi dicevano, no, questo è stupido, chi vorrebbe mai guardare delle foto su uno schermo? Who wants to send photos from telephone to telephone? Chi vorrebbe mai scambiarsi delle foto da un telefono all'altro? It's a stupid idea. È un'idea stupida. And so they locked the digital camera up in a closet somewhere. E quindi hanno messo questa macchina fotografica digitale da qualche parte nascosta. And now the world is digital. E adesso noi viviamo in un mondo che è interamente digitale. Kodak had the opportunity. E Kodak ha avuto a quel tempo l'opportunità to be the first and the biggest when it came to digital photography. Di essere il primo sul mercato delle macchine fotografiche digitali. And now the company is fighting for survival. E adesso quella azienda è in grande difficoltà, quasi non sopravvive. Why? Perché? Because they were locked in their thinking. Perché loro erano limitati dal loro modo di pensare. All they knew was what they saw. Tutto quello che conoscevano è quello che vedevano al momento. They couldn't get a vision for anything new. Non riuscivano ad avere una visione per un qualcosa di nuovo. Today is a new day for the church in Italy. Ma oggi è un nuovo giorno per la Chiesa in Italia. And the Holy Spirit is visiting your church. E lo Spirito Santo sta visitando la nostra Chiesa. And he wants to speak vision and dream. E lui vuole parlare visioni e sogni. Because it's a new day for you. Perché è un nuovo giorno per noi. So I want to share with you a message. E quindi vorrei condividere un messaggio. I've called Go Forward, Pieno Evangelo. Che si intitola Vai avanti, pieno Vangelo. Vai avanti, pieno Vangelo. This is your day. Questo è il nostro nome. So the story of Peter. E quindi parliamo della storia di Pietro. And in Acts chapter 10. E in Atti al capitolo 10. He's praying and fasting. Lui lo vediamo che sta pregando e sta digiunando. Now, Peter has seen amazing things. Ora Pietro aveva visto cose meravigliose. He walked on the water with Jesus. Lui aveva camminato sulle acque con Gesù. His shadow was falling on sick people and they get healed. La sua sola ombra portava guarigione alle persone che ne erano toccate. He preached on the day of Pentecost. Lui ha predicato il giorno della Pentecoste. And he saw 3,000 people get saved. E ha visto 3,000 persone accettare Gesù. He's seen the dead raised. Lui ha visto un morto resuscitare. He's seen amazing things. Aveva visto cose fantastiche. But he was still blocked in his thinking. Ma era ancora bloccato dal suo modo di pensare. He thought the gospel was only for the Jews. Lui pensava che il Vangelo fosse solamente per i giudei. He didn't know it was for the Italians too. Lui non lo sapeva che il Vangelo era anche per gli italiani. And the gospel went first to the Jews. E il Vangelo ha raggiunto prima i giudei. And then it came to the Italians. E poi è arrivato agli italiani. Hallelujah. Now, I'm not making this up. Ora io non mi sto inventando nulla. No, it's in the Bible. È scritto sulla Bibbia. In Acts chapter 10. In Atti al capitolo 10. There was a man by the name of Cornelius. C'era questo uomo che si chiamava Cornelio. Of the Italian regiment. E faceva parte del regime del governo italiano. And he was praying. E lui stava pregando. And an angel appeared to him. E un angelo gli è apparso. And said, "Oh Cornelius, your prayers and your generosity has come before God." E gli ha detto, "Oh Cornelio, le tue parole, la tua generosità hanno raggiunto Gesù." And so send men to Joppa. E quindi gli ha detto manda uno dei tuoi uomini a Joppe. And there's at the house of Simon the Tanner. A casa di Simone. Call for Peter. E chiama cerca Pietro. And he will bring you words by which you will be saved. E lui ti dirà delle parole che porteranno salvezza. Oh, words are powerful. Perché le parole hanno potenza. Words got the power to save you. Le parole hanno la potenza di portare salvezza. Words got the power to heal you. Hanno la potenza di portare guarigione. The word of God's got the power to lift you out of poverty. La parola di Dio ha la potenza di farti uscire dalla povertà. God's watching over his word. E Dio si rivela attraverso la parola. I'll tell you a story. It happened in Mexico. Vi dico una storia. È successo in Messico. There was a little missionary. C'era questo piccolo missionario. And he had his Bible. E lui aveva la sua Bibbia. And he was going to a village to preach the gospel. E si stava dirigendo verso un villaggio per predicare il Vangelo. And an old man who hated Christians. E tutti lì. There was an old man, an old man. C'era un uomo anziano che odiava tutti i cristiani. And he came up behind the preacher. E lui si è messo dietro il predicatore. And he had a dog. E aveva un cane. And he said to the dog. E ha detto al cane. Go bite the preacher, bite the preacher. Vai, mordi il predicatore, vai a mordere il predicatore. And the preacher turned around. E il predicatore si è girato. And he said, "I rebuke you in the name of Jesus." E ha detto, "Io ti caccio nel nome di Gesù." And the dog fell on the ground. E il cane si è praticamente steso per terra, è caduto. Put his legs up. Con le sue zampe in alto. And died. E poi è morto. And the little preacher? E il predicatore? He just kept walking. Ha continuato a camminare. The next day. Il giorno successivo. He's going through the same village. si stava dirigendo verso lo stesso villaggio. The old man came up behind him. E questo quest'anziano gli si è messo dietro. And he came with a gun. E questa volta aveva una pistola. And he put the gun to the preacher's back. E quindi ha puntato la pistola sulla schiena del predicatore. He said, "Tell me, preacher." E ha detto, "Adesso dimmi, predicatore." Before I kill you. Prima che ti uccida. What word did you use that cursed my dog? Che cosa hai detto che ha maledetto il mio cane? The preacher said. E il predicatore ha detto. The same word I'm going to use on you if you don't get that gun out of my face. Le stesse parole che dirò verso di te se adesso non mi togli la pistola contro. The old man threw the pistol. Threw the pistol. E quindi la persona anziana subito ha tolto la pistola. All right, words are powerful. Questo per dire che le parole hanno potenza. Now you got to think about Peter. Ora. Pensiamo a Pietro. He's just thinking about the Jewish people. Lui sta pensando ai giudei. And so I'm going to ask Noemi to read from verse 9 to 20. E quindi leggeremo adesso Atti 10 dal 9 al 20. Ta-da. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e scenderne un oggetto simile a una gran tovaglia che, tenuta per i quattro angoli, veniva calata a terra. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse, alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, no, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne per tre volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse quella visione, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse, ecco, tre uomini ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Amen. What a great story. Ma che storia meravigliosa. So the Holy Spirit gives a vision to Peter. Quindi lo Spirito Santo dà una visione a Pietro. With this big towel that comes down. Con questa grande tovaglia che scende giù dal cielo. And God says, mazza e mangia, mazza e mangia. E Dio che dice, ammazza e mangia, ammazza e mangia. And he looked at all the food. E lui era lì che guardava tutto questo cibo. But Jews don't eat that kind of food. Ma i giudei non mangiano questo tipo di cibo. So here comes this big towel. E immaginate questa grande tovaglia. And it's got prosciutto. Ed ha il prosciutto, soppressate, soppressata, i gamberi, grancio, aragosto, tutto cibo italiano. And says, eat, eat. E Dio dice, mangia, mangia. Ammazza e mangia, Pietro. Ammazza e mangia, Pietro. No, I can't eat that food. No, io non posso mangiare questo cibo. And God says, what I've called clean, don't you call, you know, don't call it common or unclean. E Dio ha detto, quello che io ho purificato, non lo rendere tu impuro. You know, he wasn't talking about food. E lui, Dio, non stava parlando del cibo. The Holy Spirit was trying to enlarge Peter's heart. Ma lo Spirito Santo stava cercando di allargare il cuore di Pietro. It wasn't about food, it was about people. Non era riguardante il cibo, era riguardante le persone. It's about all people. E riguarda tutte le persone. Amen. Amen. We've got to see people the way God sees them. Noi dobbiamo guardare e vedere le persone nella stessa maniera in cui Dio le vede. I got five simple points. Ho cinque semplici punti. Number one. Numero uno. Avanti, vai avanti, pieno Vangelo. There's more people to reach. Avanti, pieno Vangelo. Ci sono più persone da raggiungere. Amen. God's got more people for you to reach. Dio ha tante più persone che noi possiamo raggiungere per lui. One time I was preaching in India. Una volta stavo predicando in India. And the pastor, he took me to this past this village. E il pastore mi ha accompagnato in questo villaggio. And he said, "What do you see in this village?" E mi ha detto, "Che cosa vedi in questo villaggio?" Oh, I said, "I see a harvest field. I see a harvest field." E io gli ho risposto, "Ma io vedo che la messe, il raccolto è pronto." And he said, "Oh, I had an American pastor." E lui mi ha detto, io ho parlato con questo pastore americano. And I asked him, "What do you see in this village?" E gli ho fatto la stessa domanda, che cosa vedi in questo villaggio? He said, "Spezzatura, just garbage." E lui mi ha risposto, "Vedo solo spazzatura." Just garbage. Solo spazzatura. Well, I went to preach in that village. Beh, io sono andato a predicare in quel villaggio. And I was just a young man. Ed ero giovane. And the pastor in the village. E il pastore di quel villaggio. He didn't believe in me. Lui non credeva molto in quello che potevo fare. He said, "What are your credentials?" E mi ha detto, "Quali sono le tue credenziali? Cosa hai fatto? Do you pastor a big church?" Sei il pastore di una grande chiesa? I said, "No, I don't pastor." E gli ha detto, "No, in realtà non ho una chiesa per il quale sono pastore." "Have you graduated from Bible college?" Ma ti sei laureato alla scuola biblica? I said, "No, I haven't graduated." Ha detto, "No, non ce l'ho la laurea alla scuola biblica." "Are you married?" "Sei sposato?" I said, "No." "No." "Do you have kids?" "Hai dei bambini?" I said, "No." "No." He said, "How old are you?" E mi ha detto, "Ma quanti anni hai?" I said, "I'm 20 years old." E ha detto, "Io ho 20 anni." He said, "You're not qualified." E mi ha detto, "No, tu non sei abbastanza qualificato." And I went back to my hotel room. E quindi sono ritornato nella mia camera d'hotel. I threw myself on my face before God. E mi sono proprio prostrato davanti a Dio. And I said, "God, what am I doing here?" E ho chiesto, "Dio, ma che cosa ci faccio I'm qui?" "Just a little Calabrese boy." Io sono solo un piccolo giovane ragazzo. "My family come from Mendicino." Molto semplice, la mia famiglia è di Mendicino. "What was I thinking coming to India?" Ma che cosa stavo pensando quando sono arrivato qui in India? "I got nothing." Io non ho niente. But then the Holy Spirit. Ma poi lo Spirito Santo. Began to speak to me that day. Ha incominciato a parlarmi quel giorno. And he said, "You have not chosen me." E mi ha detto, "Non sei tu che hai scelto me." "I chose you." "Ma sono io che ho scelto te." "I ordained you." "Io ti ho scelto." "And I've chosen you to go forth and bear fruit." "E ti ho scelto affinché tu possa andare e portare molto frutto." That's John chapter 15 verse 16. E questo si trova in Giovanni 15:16. One word from God. Una parola da parte and di Dio. Something changed on the inside of me. E qualcosa proprio è cambiato nel mio cuore. I went to the meeting that night. E quindi sono andata all'incontro quella sera. Maybe nobody else saw anything in me. E nessun altro, cioè nessuno credeva in me. But Jesus put something in me. Ma Gesù aveva messo qualcosa dentro di me. His spirit lives in me. Il suo spirito vive in me. His spirit lives in you. E lo spirito di Dio vive in te. And I started to preach the gospel. E quindi ho incominciato a predicare il Vangelo. And I felt the Lord was with me. E proprio sentivo che il Signore era con me. And halfway through my message. E verso la metà del messaggio che stavo condividendo. The Holy Spirit said to me. Lo Spirito Santo mi ha detto. It's time to heal the sick. È il momento di guarire i malati. Bring the deaf people forward. E di far resuscitare i morti. So, no, deaf. Deaf. Ah, scusate. Sordi. Di dare udito ai sordi. not the dead, the deaf. I sordi, so. You do you need healing? Okay. So I said, "All you deaf people, come to the front. Come Quindi to the front." Tutte le persone sorde, non morte. Come to the front. Venite avanti. Nobody came. E nessuno venne. They were deaf. Perché erano sordi. So I said, "If you brought a deaf person, if you brought a deaf person." E quindi porta una persona. Bring them to the front right now. Venite qui davanti. And Jesus will open their ears. E Gesù guarirà il vostro udito. And I looked at the pastor. E quindi poi ho guardato il pastore. And he started to sweat. E lui lo vedevo che stava incominciando proprio a sudare. He started to bite his fingernails. A mangiarsi le unghie. And I prayed. E ho pregato. And Jesus gave me faith. E Gesù mi ha dato fede. And all five were totally healed by the power of God. E tutti i cinque sordi che erano venuti avanti sono stati guariti dalla potenza di Dio. In 2 days. E in 2 giorni. We saw 2,000 people come to Jesus. Noi abbiamo visto 2,000 persone venire a Gesù. Come on, somebody give Jesus a shout. Ah, possiamo ringraziare Gesù per questo. Oh, it changed my life. Lui ha cambiato la mia vita. I was driving out of the village. E quindi stavo guidando fuori dal villaggio. And the Holy Spirit spoke to me. E lo Spirito Santo mi ha parlato. He said, "Do you know why you saw 2,000 people come to Jesus?" E mi ha chiesto, "Lo sai perché hai visto quelle 2,000 persone venire a salvezza?" Because when you looked at that village, you didn't see garbage, you saw a harvest. Perché quando tu hai guardato a quel villaggio, non hai visto spazzatura, ma hai visto una messe pronta per il raccolto. Come on, somebody! What do you see when you look at Italy? Quindi che cosa vediamo noi quando osserviamo l'Italia? Oh, you know, the evangelical church is small and, you know, nobody cares about us. E sai, le chiese evangeliche sono piccole, nessuno ci fila, nessuno si interessa a noi. Jesus said the harvest is great. Ma Gesù ha detto la messe è grande. But the laborers are few. Ma gli operai sono pochi. Lift up your eyes. E quindi alza lo sguardo. Get a vision for the harvest. E guarda il raccolto, la messe. Get a vision for the church in Italy. E prendi, abbi visione per la chiesa in Italia. Because what you see is what you get. Perché quello che vedi è quello che otterrai. If you can see it, you can have it. Perché se tu lo puoi vedere, lo puoi ottenere. Hallelujah. Anche. Amen. Alleluia. Pastor Mirko, you know what I see? Pastore Mirko, lo sai quello che io vedo? I don't just see two services. Io non vedo soltanto due incontri. Not three services. Neanche solo tre. Four services. Quattro. Several locations. In diverse luoghi. A church of thousands. Una chiesa di migliaia. In Bari. In Bari. In Modugno. A Modugno. Giovanozzi. A Giovinazzo. All over, come on. Tutto attorno. If you can see it. Perché se tu lo puoi vedere. You can have it. Allora tu lo puoi anche ottenere. You got to see what the Holy Spirit sees. Devi vedere quello che lo Spirito Santo vede. There was this Italian. C'era questo italiano. And he had a dog. E lui aveva un cane. And he took the dog to the water, to the ocean. E ha portato il cane al mare. And he took a stick. E ha preso un ramo. And he threw the stick to the water. E l'ha lanciato nell'acqua. And he said to the dog, "Go get it, go get it." E ha detto al cane, "Vai a prenderlo, vai a prenderlo." And the dog. E il cane. Walked on the water. Ha camminato sulle acque. And picked up the stick. Ha preso il bastoncino. And walked back on the water. E poi è ritornato indietro sulle acque. He said, "No." I said, "No." I can't believe it. Non è possibile. So he went back to the church. E quindi è ritornato in chiesa. And he found this elder. E ha trovato questo anziano. Who was so negative. Che era così negativo. He thought he'll be a good witness. E ha detto, ha pensato, lui certamente sarà un buon testimone. Come and see this. E ha detto a questo anziano, vieni a vedere. He took the stick. E quindi ha preso da capo il bastone. And he threw the stick into the ocean. E l'ha lanciato di nuovo in acqua. And he said to the dog, "Go, go." E ha detto al cane, vai a prenderlo. And the dog. E il cane. Walked on the water. Da capo, lo vediamo che ha camminato sulle acque. Picked up the stick. E ha preso il bastone. And walked back. E ha camminato e poi è ritornato. The man said, "Tell me." E poi ha detto, dimmi. Did you notice something different about my dog? Hai notato qualcosa di diverso del mio cane? The old man said, "Yeah." E l'anziano disse, "Sì." He can't swim. Lui non può nuotare. What you see. Che cosa vedi? Is what you get. Quello che vedi è quello che otterrai. Go forward, pieno evangelo. E quindi vai avanti, pieno evangelo. There's more people to reach perché in this city. Perché ci sono molte più persone da raggiungere. Number two. Numero due. Go forward. Vai avanti. And follow the vision of your heart. E segui la visione del tuo cuore. What's your vision? Qual è la tua visione? What's your vision? Qual è la tua visione? It shall come to pass in the last days, says God. And I'll pour out my spirit upon all flesh. E io manderò e io invierò il mio spirito su tutte le genti. Your sons and daughters shall prophesy. E i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Your young men will see visions. E i giovani vedranno visioni. And your old men will dream dreams. E gli anziani avranno dei sogni. That's the ministry of the Holy Spirit. Questo è il ministero dello Spirito Santo. He wants to lift he wants to raise your vision. Lui vuole innalzare, rendere più grande la tua visione. For what God can do in your life. Per quello che Dio può fare nella tua vita. There was a young man. C'era questo giovane. Very, very poor. Molto, molto povero. He lived in a vehicle. E lui viveva in un mezzo di trasporto, in un camioncino. And his teacher at school said, you know, why don't you write a dream statement? E il suo insegnante a scuola gli aveva affidato il compito di scrivere una frase di visione per la sua vita. And he said, one day I'm going to have a big farm in California. Lui ha scritto: un giorno in California avrò una grande fattoria. 200 acres. Di tanti ettari. And I'm going to have horses, lots of horses. E avrò dei cavalli, tantissimi cavalli. And the teacher called him. E quindi l'insegnante l'ha chiamato. And said, you fail. E le ha detto: ti ho bocciato. It's impossible. Perché quello che è scritto è impossibile. If somebody like you, qualcuno, cioè uno come te, you live in a vehicle. Cioè tu vivi in un camioncino. It's inconceivable. È proprio inconcepibile. That you're gonna have a farm with hundreds of horses. Che tu un giorno possa avere una fattoria con delle mandrie di cavalli. I'm gonna give you an opportunity to rewrite your paper. E quindi ti darò un'altra opportunità. Scrivi da capo il compito. And make it a little bit more reasonable. Scrivi qualcosa che sia un po' più ragionevole. Maybe you can sweep the street with the broom. Forse puoi scrivere che farai lo spazzino. Something more reasonable. Cioè qualcosa di più realistico, and di più ragionevole. And I'll give you a passing grade. E io ti potrò promuovere in that quel young, caso. That young man said to his teacher. E quel ragazzo ha detto all'insegnante. You can keep your failing grade. Tu questo compito te lo puoi tenere. And I'm gonna keep my dream. E io invece mi terrò la mia visione. And now today. E oggi. He wrote a book. Lui, questo ragazzo, ha scritto un libro. There's a movie about him. E c'è anche un film ispirato dal libro. The man who speaks with horses. L'uomo che sussurra i cavalli. He's got 200 acre farm in California. Lui ha una fattoria di 200 ettari. And he raises thoroughbred horses. E lui ha la sua mandria di cavalli. Hallelujah! È bellissimo. With God it's possible. Con Dio è possibile. Number one. Numero uno. Go forward. Vai avanti. There's more people to reach. Perché ci sono più persone da raggiungere. Number two. Numero due. Go forward. Vai avanti. Get pregnant with God's dream. Porta dentro di te, sì, in gravidanza con la visione di Gesù. Some of you. Qualcuno di voi. You think I'm fat. Pensa che io sia grasso. You think, oh, Antonio Greco. Lei si mangia troppo soppressate, ricotte, pane, pasta. I say, no, I'm not fat. No, io non sono grasso. I'm pregnant. Io sono incinta. Oh, I got so many big dreams. Perché on the inside ho così of me. Tanti sogni dentro di me. It's, I can hardly sleep at night. E quindi a malapena posso dormire la notte. Oh, I'm about to give birth to something big. Perché sto per partorire qualcosa di grande. Number three. Numero tre. Go forward. Vai avanti. Doubting nothing. E non dubitare di nulla. The Spirit said to Peter. Lo Spirito ha detto a Pietro. I want you to go to the Italian's house. Io voglio che tu vada nella casa degli italiani. And don't doubt anything. E non avere nessun dubbio. So Peter went in faith. E quindi Pietro va in fede. Look at this verse in Mark chapter 10 verse 27. Guardate questo verso in Marco al capitolo 10 versetto 27. Jesus said, "With men, it's impossible." Gesù ha detto, per gli uomini è impossibile. But not with God. Ma non con Dio. Because con Dio. Perché con Dio. Tutte le cose sono possibili. Tutte le cose sono possibili. Tutte le cose sono possibili. Tutte le cose sono possibili. Tutte le cose sono possibili con Dio. Amen. Tutti. I looked up the word tutti. E quindi ho ricercato, ho fatto un po' di ricerca sulla parola tutte. In the original language. E nella lingua originale. And tutti. E tutte. Means. Vuol dire. Tutti. Tutte. Tutte le cose sono possibili. Cioè tutte le cose, tutte all, le cose sono all possibili. All things are possible. Tutte le cose sono possibili. With God, con Dio. Con Dio. Now we don't have a problem with that verse. Ora. Leggendo questo versetto, noi non abbiamo alcun problema. Certo, con Dio. È chiaro, con Dio. È chiaro, con Dio, tutte le cose sono possibili. Ma lui è Dio. E io sono un calabrese di Mendicino. Oh, povero Antonio. Little boy. Piccolo ragazzo. Piccolo ragazzo, ragazzone. Because I'm pregnant. Allora, look at this other verse. Ora, guardiamo quest'altro versetto. In Mark chapter 9. In Marco 9. Verse 23. Al verso 23. Jesus said. Gesù dice. If you can believe. Se tu ci credi, puoi credere. Tutte le cose sono possibili. Tutte le cose sono possibili. To the one who believes. Per colui per chi crede. With God. Quindi con Dio. All things are possible. Tutte le cose sono possibili. To the one who believes. Per colui che crede. All things are possible. Tutte le cose sono possibili. When you believe. Quindi quando tu credi. The things that are possible with God. Nelle cose che sono possibili per Dio. Are possible for you. Queste cose diventano possibili per te. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, I tell you. There was a little boy. Ora c'era questo ragazzino, questo bimbo. And when he had polio when he was a child. Lui aveva questa disfunzione alle gambe che si chiama poliomielite. Poliomielite. Polio. Okay. Sick, malato. E aveva questa disfunzione grave alle gambe. So his father made a box for him. E quindi suo padre gli aveva costruito questa specie di scatola. And he put wheels on it. E gli aveva messo delle ruote. And he put the little boy in the box. E quindi aveva messo suo figlio all'interno della scatola. And the little boy was known as il ragazzino nella scatola. E questo bambino era conosciuto come il ragazzino nella scatola. The boy in the box. Il ragazzino nella scatola. And he would be in that box. E quindi lui era lì nella sua scatola. And his father would take him everywhere. E suo padre lo portava dappertutto. And he'd wave at everybody. E il bambino insomma salutava un po' tutti. And everybody would wave at him. E tutti quanti rispondevano a quel saluto. And everybody knew him as the boy in the box. E tutti quanti lo conoscevano come il ragazzino nella scatola. And one day his father left him in front of the mirror. E quindi un giorno il padre lo lasciò davanti a uno specchio. And he was looking in the mirror. E lui stava si specchiava nello specchio. And he was smiling. E stava e si sorrideva. I'm the boy in the box. E diceva io sono il ragazzino nella scatola. And then he had a vision. E poi ha avuto una visione. He saw Jesus. Ha visto Gesù. And he saw Jesus raise him up. E ha visto Gesù che lo faceva alzare in piedi. And the vision was gone. E poi la visione scompare. And something happened on the inside. Ma qualcosa succede dentro il cuore di quel bambino. He didn't like being the boy in the box anymore. Perché da quel momento a lui non piaceva più essere in quella scatola. So he started to rock the box. Quindi ha incominciato a dondolare questa scatola. Until finally the scatola fell over. Fino a che la scatola si è capovolta. And the little boy tried to get up. E lo vediamo il bambino che cerca di alzarsi. And his mom and dad came running. E i suoi genitori accorsero. You are the boy in the box. Tu sei il bambino nella scatola. Ma chi fai? Ti do uno scaf in la faccia, fa faccia rosso come un pomodoro. And they put him back in the box. E dopo tutto questo l'hanno rimesso nella scatola. Ti faccio ange per 3 ore, no uno, no due, ma 3 ore. And they put him in the box. That's what my grandma. I miei nonni mi ha detto così. Okay. And so they understand that? Sì, sì. That's calabrese. Perfect. Okay. And so they put him in the box. E quindi da capo, era nella scatola. The little boy waited for the parents to go away. E quindi il ragazzino aspetta che i genitori si allontanano da capo. And he start rock. E da capo lo vediamo che si dondola nella scatola. Gondola? Dondola. Dondola. Gondola. Funiculi, funicula. No. Okay. Dondola. The dondola was going like this. Till finally it fall over. E poi da capo cade. Mama would come running. E la mamma che viene da capo. Why you kid chase? Pazze. Get back in the box. Ritorna, ritorna nella scatola. And this went on for several days. E questo successe per diversi giorni. But something happened to that little boy. Ma nel cuore di quel bambino qualcosa era successo. He refused to be labeled as the boy in the box. Lui ha incominciato a rifiutare ad essere etichettato come quel ragazzino nella scatola. Because the vision changed him. Perché la visione che aveva ricevuto l'aveva cambiato. And he rose up and walked healed by Jesus. Fino a che poi davvero si è alzato ed è stato guarito completamente da Gesù. Hallelujah! Oh, a vision from God. Oh, la visione da parte di Dio. Is so powerful. È così potente. Church. Chiesa. You got the dream giver. Noi abbiamo colui che ci dà dei sogni. The Holy Spirit. Lo Spirito Santo. Wants to free you from your past. Ci vuole liberare dal nostro passato. It's time to dondola the scatola. Perché è tempo che ci incominciamo anche noi a dondolare nella nostra scatola. Keep rocking that box. E cercare proprio di uscire da quella scatola. Rock the box of religion. Di proprio uscire dalla scatola della religione, dell'essere religioso. Rock the box of poverty. La scatola della povertà. One vision of Jesus. Una visione da parte di Gesù. Will change your life forever. Può cambiare la tua vita per sempre. If you can see it, you can have it. Perché se tu lo puoi vedere, allora lo puoi anche ottenere. It's a new day for the church in Italy. Per la chiesa in Italia è un nuovo giorno. Hallelujah. Amen. Oh, I get so excited. I feel like I want to run. Mi sento, sono così contento, mi sento che voglio correre dappertutto. Number four. Numero 4. Avanti, vai avanti. Avanti. Because God is at work. Perché Dio è all'opera. Peter was praying on the rooftop. Vediamo che Pietro stava pregando sulla terrazza. But he didn't know that 36 hours earlier. Ma quello che non sapeva è che 36 ore prima that an angel had appeared to an Italian. Un angelo era apparso all'italiano. A quell'italiano. Let me tell you, God is at work in your country. E lasciate che vi dica, Dio è all'opera nel vostro paese, nella vostra nazione. Jesus is alive and well. Gesù è vivo, è all'opera. And he's working in people's hearts and people's lives. E lui sta lavorando nella vita delle persone. It's so easy for us to see people as outsiders. È così facile per noi vedere le persone come qualcuno da non necessariamente includere, che è esterno. We have to change your thinking. Ma dobbiamo cambiare questa mentalità. When I was in India. Quando in India. I learned how they trained elephants. Ho imparato come addestrano gli elefanti. They take the elephant when it's a baby. Loro prendono l'elefante quando è piccolo. And they put a chain around his leg. E gli incatenano le zampe. And they nail it to the ground. E lo fanno inginocchiare sul terreno. No, they put the nail. They peg the chain to the ground. Sì, la catena è bloccata con un chiodo al terreno. And the little elephant wants to go, but he can't. E quindi vediamo che l'elefante vuole liberarsi, vuole andare, ma non può. But then, when the elephant is full grown, ma poi l'elefante, quando è cresciuto, they take the elephant to work, lo portano al lavoro. And then when they want to have coffee break, e quando vogliono prendersi una pausa per il caffè, or tea, chai, o del tè, del chai, they take a shoestring, un lazzo. Loro prendono un laccio. Laccio. Laccio? Laccio. Laccio. No, lazzo. Laccio. Laccio. And they, thank you. And they tie it to the elephant's leg. E lo legano alla zampa dell'elefante. And the elephant will not move. E l'elefante non si muove. Let me ask you a question. Ora, vi voglio fare questa domanda. Is the elephant bound? L'elefante è veramente legato? No. Ah, yes. Sì. Però sì. He's not bound physically. Non è legato fisicamente. But mentally. Ma è legato a livello mentale. A lie. Perché c'è quella bugia. A lie. Una bugia. Is holding him back. È quella bugia che lo trattiene. Jesus said. E Gesù ha detto, and you will know the truth. E voi conoscerete la verità. And the truth will set you free. E la verità vi farà liberi. And the truth is, e la verità è, Jesus is building his church in Italia. Che Gesù sta edificando la sua chiesa in Italia. And the gates of hell shall not prevail. E il male non potrà prevarrare su di essa. God is at work. Che Dio è all'opera. His plan is bigger than you ever imagined. Il suo piano è più grande di quello che noi possiamo immaginare. And my last point is this. E il mio ultimo punto è questo. Miracles happen when you go. Quando andiamo, i miracoli succedono. Miracles happen when you go. Quando noi andiamo, i miracoli succedono. I remember one time. Mi ricordo questa volta. We had a meeting in a restaurant. Avevamo questo incontro in un ristorante. And when I walked into the restaurant, e quando sono entrato in questo ristorante, I saw the owner, he was a Muslim man. Ho visto il proprietario, lui era un uomo musulmano. And instantly the Holy Spirit spoke to me and said, he's got a sick heart, you need to minister to him tonight. E in quel momento ho sentito lo Spirito Santo che mi ha detto, lui ha un cuore malato, devi ministrare su di lui questa sera. And I got intimidated. E quindi io sono un po' intimorito. I thought he's a Muslim. No, è un musulmano. Oh no, I can't do it. No, non lo posso fare. So I said to the Lord. E quindi ho detto al Signore. The other guy is preaching. Tell him. Chi sta predicando è un altro. Perché non glielo dici a lui? Yeah, he's the big preacher. Cioè è lui che sta predicando. I'm just a little calabrese from Mendicino. E io sono solo un calabrese da Mendicina. So you speak to him. E quindi ho detto, Signore, parla a lui, chiediglielo a lui. Nothing, the whole night. Niente, durante tutta la sera, niente. Oh, my heart was going like this the whole night. E il mio cuore era così, palpitava così forte durante tutta la sera. Finally, the end of the night. Alla fine della serata. I said to that man. Ho detto a quell'uomo. I have this gift from God. E ho detto, allora io ho questo dono da parte di Dio. And sometimes he shows me things. E alcune volte Dio mi mostra delle cose. And he showed me something about you, I think. E lui mi ha mostrato, credo, qualcosa che ti riguarda. Are you open? Vuoi ascoltare? And I was hoping he'd say, no, I'm a Muslim, stay away. E io volevo che lui mi rispondesse, no, io sono musulmano, vattene via. But he said, oh yes, I'm open. E lui, ma invece lui mi ha risposto, sì, certo, sono aperto, ti voglio ascoltare. I said, okay, the Lord showed me that you have a bad heart, you need healing. E ho detto, okay, il Signore mi ha mostrato che tu hai qualche problema al cuore e hai bisogno di essere guarito. He said, Mr. Anthony. E lui ha detto, signor Anthony, I've been healthy all my life. Io da sempre godo di buona salute. No problem. Nessun problema. But 3 weeks ago, ma 3 settimane fa, I started getting pain in my chest. Ho incominciato a sentire un dolore al petto. Pain down my arm. Che mi ha preso poi tutto il braccio. I'm too scared to go to the doctor. Io ho troppa paura di andare dal medico. Oh, right away I felt yes. Hallelujah. E quindi in quel momento mi sono sentita bene, ok? I became a man of God instantly. In quel momento sono diventato l'uomo di Dio. Yes, praise Jesus. Okay, gloria a Dio. Gloria a Dios. The same God that reveals is the God that heals. May vedete, I minister lo stesso Dio che mi ha rivelato questo è lo stesso Dio che ti vuole guarire oggi. And he said, no, don't pray. E lui mi fa, no, non pregare. Tell me first what's wrong with that girl. Prima, dimmi che cos'è che non va in quella ragazza. Was one of his workers. E quella ragazza lavorava per lui. Now I got angry. E quindi adesso, cioè, in quel momento mi sono arrabbiato. God, that's not fair. E ho detto, Dio, ma non è giusto. I did what you told me. Cioè, io gli ho detto quello che tu mi hai detto. That wasn't part of the plan. E questo non faceva parte del piano. And then I looked at this lady. E poi ho guardato effettivamente questa ragazza. And the Holy Spirit spoke to me. E lo Spirito Santo mi ha parlato. So I said to that man. E quindi ho detto all'uomo. She's in pain. Lei è sofferente. But it's not physical pain. Ma non si tratta di una sofferenza it's fisica. It's emotional pain. Si tratta di una sofferenza emotiva. Her husband has just left her. Suo marito l'ha abbandonata. And she's at home with 2 kids, a boy and a girl. E al momento lei è a casa con 2 bambini, un maschietto e una femminuccia. He said, that's right. E lui mi fa, hai ragione. I said, great, now can I pray for you? E ho detto, bene, allora adesso posso pregare per te? He said, no. E ho detto, no. Wait. Aspetta. And he went into the kitchen. E quindi lo vedo che va in cucina. And all I hear is, tutto quello che posso sentire è questo. And then He brings everybody out. Dopodiché tutti quanti escono dalla cucina. Lines them all up. E li mette tutti in fila. And then he says. E mi dice. Now Anthony's gonna pray for all of you. E dice a tutti. Ora Anthony pregherà per tutti quanti voi. And you're all gonna receive what he has to say. E tutti quanti voi riceverete quello che lui dirà. So I shared the gospel with them. E quindi ho avuto l'occasione di condividere il Vangelo con tutte quelle persone. And I got to pray with all of them. Come on, somebody. E ho pregato per tutte quelle persone. Give Jesus a shout. Non è meraviglioso? Ringraziamo Gesù per questo. Go forward. Vai avanti. God's at work. Perché Dio è all'opera. God's at work. Dio è all'opera. One time my wife and I. Una volta io con mia moglie. We had our little boy, our first child with us. Avevamo il nostro primo figlio con noi. And we were in London Heathrow Airport. E noi eravamo all'aeroporto di Heathrow in a Londra. And we went to one of the desks where there was a lady there. E quindi ci siamo avvicinati a uno dei banchi lì, c'era una signora. And she starts saying, "Oh, what a cute kid! What's the horoscope sign he's born under?" E lui dice, ah, che carino questo bimbo. What's your horoscope? Virgo, Sagittarius. Ah, qual è il suo segno zodiacale? And I said, are you interested in spiritual things? E io gli ho domandato, sei interessato nelle cose spirituali? Oh yes, I'm very interested, she said. E lei dice, sì, io sono molto interessata in queste cose. So I started telling her about Jesus. E quindi ho incominciato a raccontarle di Gesù. And she says, this is wonderful. E lei dice, ma questo è fantastico. Because look at my leg. Perché guarda alla mia gamba. And it was all bandaged up. E aveva tutta una fasciatura. She said, today's my last day of work. Mi dice, oggi in realtà è l'ultimo giorno di lavoro. I can't work anymore because of my leg. Io non posso più lavorare proprio a causa di questa gamba and che non funziona. She got out from behind the desk. E quindi fa il giro della sua scrivania. And she said, pray for me. E dice, prega per me. And she put her hands like this. E si mette in questa posizione. I'm in the middle of the airport, cioè in London. Io sono all'aeroporto a Londra. I thought, what am I going to do? E cioè, cosa faccio? I didn't have the music instruments behind me. Chiaramente non avevo la musica di sottofondo. You know, Benny Hinn. Alleluia. Sapete un po' come fa Benny Hinn in con tutta la musica? Nothing. Niente di tutto ciò. I thought, what am I going to do? E cioè, cosa faccio? So I said, so my wife and I, we laid hands on her leg. E quindi con mia moglie abbiamo imposto le mani sulla sua gamba. And I could feel people lining up behind us. E io potevo sentire che si stava formando la fila dietro di noi. And they were not happy with me. E chiaramente quelli in fila non erano contenti. So I started to pray this prayer. E quindi ho incominciato a pregare in questo modo. Father, thank you that you love each and every one of us. Dio, grazie perché tu ami ognuno di noi. And you have a plan for every one of us. E tu hai un piano per tutti quanti noi. But we've all sinned and fallen short of the glory of God. Ma abbiamo tutti peccato e siamo privi della gloria di Dio. And the wages of sin is death. E il salario del peccato è la morte. But you showed your love for us. Ma tu hai mostrato il tuo amore per noi. That while we were yet sinners. Che quando ancora eravamo peccatori. You sent Jesus to die in our place. Tu hai mandato Gesù a morire al posto nostro. He became our sin. Lui è diventato il nostro peccato. I gave the whole gospel message. Ho dato praticamente tutto il messaggio di salvezza. And then in the end I said. E poi alla fine ho detto. And heal her ankle. Amen. E guarisci anche la sua caviglia. Amen. Oh, there was a big crowd behind me. E si era creata una grande folla dietro. I could feel how angry they were. Cioè io avevo la percezione di quanto fossero arrabbiate queste persone. So I didn't even want to turn around and look at them. E quindi mi sono girato. No, I didn't want to turn around. No, io non volevo, non avevo neanche il coraggio di guardare dietro. I just kind of backed away like this. E quindi ho indietreggiato in questa maniera. And I got back in my line. E poi mi sono messo da capo in fila. And she said to me, "All right." E lei dice, ok. Let's see what happened. Vediamo un po' che succede. And she started jumping like this. E incomincia a saltare così. And she starts saying to the crowd. E incomincia a dire alla folla. This is brilliant. This is brilliant. Questo è fantastico. Look è fantastico. Guardate. Look what Jesus has done. Guarda quello che Gesù ha fatto. Look what Jesus has done. Guarda quello che Gesù ha appena fatto. She said, now pray for my asthma. Pray for my asthma. E lei dice, adesso prega per l'asma. Prega per l'asma. We had a healing service in London Heathrow Airport. All'aeroporto un un incontro di guarigione. God's at work in your city. Perché Dio è all'opera nella nostra città. He's looking for someone to be his hands. Lui è in cerca di qualcuno che possa essere le sue mani. Step out in faith. Che possa fare quel passo di fede. Lay your hands on somebody. Che possa imporre le mani sulle persone. You lay hands on the sick. Che possa imporre le mani sui malati. And Jesus works the miracle. Così che Gesù possa poi operare il miracolo. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Give Jesus an applaud. Perché non possiamo non adoriamo e lodiamo Dio con un applauso? Oh, there you are. You came a little bit later today. Sei venuto un po' tardi oggi. You were earlier this morning. Stamattina sei venuto prima. Did you go for a caffè? Sei andato a prenderti un caffè? Caffè, okay. You have great coffee in Italy. It's veramente in Italia si beve del caffè buonissimo. They don't have good coffee in America. In America no, non hanno un buon caffè. They take the dish rag. Loro prendono la spugna dei piatti. And then they put it in the water like this. E quindi poi la mettono nell'acqua. And they say, ecco, caffè. You know. E poi ti danno quell'acqua e te lo passano per caffè. Hallelujah. Oh, I've been to 40 nations of the world. Sapete, io sono stato in 40 paesi diversi attorno al mondo. I've seen God do some amazing things. E ho visto proprio Dio fare delle opere meravigliose, strabilianti. This past July, my wife and I went to Tanzania. Lo scorso luglio con mia moglie siamo andati in Tanzania. Reaching out to the Muslims. Cercando di raggiungere i musulmani. And we saw 40,000 people come to Jesus in one night. E abbiamo visto 40,000 persone accettare Gesù in un'unica serata. I think we have a picture of it. We can put it on the screen. Probabilmente abbiamo la foto che possiamo proiettare. If you have it, put it up. If not, it's there. We go. Mm-hmm. Amazing. È strabiliante. Amazing. I never imagined. Io non avrei mai immaginato that God could ever do something with me. Che Dio avrebbe potuto fare qualcosa del genere con me. I'm born in Canada. Io sono nato in Canada. My parents were never educated. I miei genitori non sono mai andati a scuola. I'm just a little ragazzini di Mendicino, you know? Sono quel piccolo ragazzino di Mendicino. Yeah. Bound by fear. Ed ero proprio legato da paure. But this work of Jesus in my life. Ma quest'opera di Gesù nella mia vita. I am so thankful for his grace. Io sono così grato per la sua grazia. For his spirit that's in my life. Per il suo spirito che è attivo nella mia vita. But when I come here to Italy. E quando sono arrivato qui in Italia. Especially here in Pieno Evangelo. In modo particolare qui in questa chiesa, la chiesa Pieno Evangelo. I sense destiny on this church. Ho proprio questa percezione di destino su questa chiesa. The hand of God is on this church. Che la mano di Dio è su questa chiesa. And the Holy Spirit. E lo Spirito Santo. Is speaking to you all. Sta parlando a noi tutti. To lift up your eyes. E ci sta invitando ad alzare lo sguardo. Mazza e mangia. Ad ammazzare e a mangiare. Don't call anybody common or unclean. A non chiamare nessuno impuro o sconsacrato. It's not us versus them. Perché non è noi contro di loro. It's harvest time. È il tempo di raccolta. It's harvest time. Il tempo di raccolta. In Italy, in Puglia, Italia, in Puglia. Lecce, Basilicata, Calabria, Sicilia. Even up north, you know. Anche insomma, anche al nord. But the south is better. Ma la parte del sud è la migliore. Don't tell Berlusconi, but the south non is non better. Non lo diciamo a Berlusconi, però yeah, il sud. Yeah, he knows, è he knows, you know. Lui lo sa. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Can we just lift our hands? Perché non alziamo le nostre mani al cielo? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. I welcome you, Holy Spirit. E io ti do il benvenuto, Spirito Santo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Grazie, grazie Gesù. Thank you, Jesus. Grazie. Thank you for this church, God. Grazie per questa chiesa, Signore. Thank you for Pastor Mirko and his family, his mother and father, God's brother. Grazie per il pastore Mirko, per la sua famiglia, per sua madre, suo padre, per i suoi fratelli. Thank you, Lord, for what you're doing. Grazie per quello che tu stai facendo. This is just the beginning. Che questo è solo l'inizio. It's a new day. Perché è un nuovo giorno. The harvest is ripe. È perché il raccolto è maturo. The harvest is ripe. Il raccolto è maturo. Father, we just declare. E quindi Padre, noi dichiariamo. Over Pastor Miracle right now. Sul pastore Mirko in questo momento. Pastor Miracle, could you just stand up? Pastore Mirko, ti puoi alzare? George, could you just come and just lay hands on him and Madeline and I want to pray for your pastor. Le nostre mani verso il pastore Mirko. Come on, just stretch your hands out. Perché non ci alziamo tutti quanti insieme? Imponiamo le mani. Oh ramande desi kid le bende remando zinge oh vrabasi kito romosi kadinde le dende fresi kinde brando vesi kinde romondo le shikira rabate che te le mando vremande zigide bandere vramande le vesi kadinde lobode le vesi kadinde roboto sikinda mande dende le masoko donde le vesi kadinde vremando le shika ramasi Rabande socora mandede robonde those things that I've shown you in the dark. The things that I've shown you in the dark. Le cose che io ti ho mostrato nel buio. The things that have begun in the invisible. Le cose che sono incominciate nell'invisibile. The dreams and the hopes that I've implanted in your heart. Le speranze e i sogni che io ho messo nel tuo cuore. Those things that you've longed for. Queste cose che da tanto hai desiderato. And you wondered if it could possibly be. E tu ti chiedi se veramente possono essere possibili. And you've wondered when is it going to happen. E ti sei chiesto ma quando succederà. Is it just a fantasy? È solo una fantasia. Will it ever happen? Succederà mai? Mirko, the Lord says to you. Mirko, il Signore ti dice. That what God has begun. Che quello che Dio ha incominciato. He will complete. Lui lo porterà a compimento. You will see it with your eyes. E tu lo vedrai con i tuoi occhi. It will multiply. E si moltiplicherà. The promise that I have given you. Le promesse che io ti ho dato. It will grow stronger. E si rafforzeranno sempre di più e sempre di più. It will grow mightily. And prevail. It will prevail. It will overcome. Saranno prevalenti di vittoria. It you shall see it with your eyes. E tu le vedrai con i tuoi occhi. It's a new day, Mirko. Perché è un nuovo giorno. And the Lord is with you. E il Signore è con te. And leaders will rise up. E dei leader si alzeranno. Leaders of honor. Leader che onorano, that will gather around you, che ti circonderanno, ti staranno accanto, they will carry your shield, che ti porteranno lo scudo, armor bearers, che saranno delle barriere come un esercito. And I will put a new spirit on you from this day. E io da oggi metto un nuovo spirito, a governing authority, un'autorità che governa, an ability to continue to multiply leaders, un'abilità che ti dà la forza di moltiplicare leader. Leaders who will be sharp. Leader che saranno pronti, definiti. Walking in discernment. Che camminano in discernimento. With clarity. Con chiarezza. Speaking the word of God. Che parlano la parola di Dio. And not one word will fall to the ground. E non una parola cadrà. And from this place. E da questo posto. I see branches shooting out. Io vedo rami che vanno verso l'esterno. New churches. Nuove chiese, new outreaches, nuove opportunità di conquista. Io confesso moltiplicazione. Moltiplicazione. And I see a shifting of relationships. E io vedo proprio un cambiamento nelle relazioni. A shifting of relationships. Un cambiamento. That will continue to feed what God has started in this place. Che continua l'opera che Dio ha incominciato in questo posto. That will bring the wisdom at the right time. Che porteranno saggezza al momento giusto. And the right anointings, the right input. E il giusto, la giusta parola giunta, le giuste rivelazioni. To see the work go to a whole another level. Per vedere, raggiungere un livello maggiore. If you can see it, se tu puoi vederlo, you can have it. Allora tu puoi ottenerlo. I see television. Io vedo la televisione. I see influence. E vedo proprio un'influenza. I see the radio. Vedo la radio. I hear your voice. E sento la tua voce. Going throughout Puglia. In tutta la Puglia. To all the different parts of Italy. Che raggiunge tutte le parti diverse dell'Italia. Let the voice be heard. Che la voce possa essere ascoltata. Jesus is alive. È una voce che dice che Gesù è vivo. It's a revolution. E che è una rivoluzione. It's a movement. Un movimento. It's a new day. Un nuovo giorno. And I see young people running with it. E vedo nuovi giovani che sono con te in questo. Full of Jesus. Pieni di Gesù. Full of the Spirit. Pieni dello Spirito. Doing the works of God. Che fanno le opere di Dio. Turning their world upside down. Che mettono il loro mondo sotto in sopra. Jesus name. Nel nome di Gesù. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, it's a new day. È un nuovo giorno. It's a new day. It's a new day. È un nuovo giorno. Hallelujah. Hallelujah. Look out, devil. Vai via, diavolo. Here comes the Italians are coming. Perché adesso attenzione che gli italiani stanno arrivando. Oh, the Italians are coming. Oh, gli italiani stanno the arrivando. The devil is afraid. E il diavolo ha paura. Of somebody who catches the spirit. Di qualcuno, di coloro che prendono lo spirito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Thank you, Jesus. Grazie, grazie. Oh, are you ready tonight? Sei pronto questa sera? The Holy Spirit wants to do something here. Perché lo Spirito Santo vuole Come fare on. Qualcosa. He wants to visit you. Su, vuole incontrarti. Raise your hands. Perché non alzi le tue mani All al cielo? Over this place. In tutto, dalla prima say, fila all'ultima. Say, visit me, Holy Spirit. E di incontrami Spirito Come, Santo. Holy Spirit. Vieni Spirito Santo. Renew my vision. E rinnova la mia visione. Enlarge my capacity. Allarga la mia capacità. Enlarge my capacity. Allarga, allarga. To see what you're doing in the earth. Così che io possa vedere quello che stai facendo sulla terra. Thank you, Father. Grazie, Padre. Say yes, Jesus. E di sì, Gesù. Yes, Jesus. Sì, Gesù. I confess you as Lord. Io ti confesso come Signore. You're my Lord. Tu sei il mio Signore. I follow you. E io ti seguirò. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen. Thank you, Lord. Grazie. Thank you, Father. Grazie, Gesù. Thank you, Father. Come on, let me do a healing prayer. Voglio pregare per guarigione. Healing, yeah. Guarigione? Guarigione. Guarigione. Guarigione. Are you ready to receive healing? Sei pronto per ricevere guarigione? Welcome, Holy Spirit. Sei qui, sei il benvenuto, Spirito Santo. Welcome, Holy Spirit. Sei il benvenuto. Jesus, you're the same yesterday, today, and forever. E Gesù, tu sei lo stesso di ieri, di oggi, lo sarai in eterno. Thank you for being here. Grazie perché sei qui. Thank you that you're here right now. Grazie perché sei qui in questo momento. Working miracles in our midst. E stai operando dei miracoli nel nostro mezzo. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Welcome, Holy Spirit. Ti diamo il benvenuto, Spirito Santo. How many couples here? Quante coppie qui? You can't have children. Non possono avere bambini. But you want to have children. Ma tu volete avere dei bambini. Just raise your hand right now. Perché non alzate in questo momento le vostre mani? Who wants to have kids? There? Chi vuole? Chi vuole avere bambini? Okay. Okay. Anyone else? C'è qualcun altro? Alzate le vostre mani. Okay. It's for you then. È per te. Just stretch your hands out to this. Yeah. Oh, where? This? Oh, that couple there? Mm-hmm. Okay. Two couples? Two couples. Okay. All right. Somebody just around them. Wait, can you keep your hands up high where I can see? Potete alzare le vostre mani così che chi va a couple there. Sì, quella coppia lì. And was another one? E coppia lì. Okay. All right. Someone just put your hands on them right there. Allora chi sta accanto? Father, potete imporre le mani su di loro. In Jesus name. Padre, nel nome di Gesù. Just begin to receive right now. E incomincia a ricevere in questo momento. In Jesus name. Nel nome di Gesù. I speak healing io confesso guarigione into your bodies right now. Nei vostri corpi in questo momento. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Receive. Ricevi. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. Thank you, Father. Grazie Padre. Thank you, Father. Grazie Padre. Thank you, Father. Grazie Padre. Every person in this place. E tutte le persone qui in questo posto. That you got pain in your body right now. Che tu hai qualsiasi tipo di dolore nel tuo corpo. I want you to get ready to receive healing right Io now. Io voglio che tu sia preparato a ricevere guarigione in questo momento. Jesus is here right now. Perché Gesù è qui in questo momento. Put your hand. Metti la tua mano. Where you want Jesus to put his hand. Dove vuoi che Gesù metta la sua mano. Somebody's knee and hip is being healed right now. In questo momento il ginocchio e l'anca di qualcuno è stata guarita. Somebody was in a car accident and you've got pain down your back. Qualcuno ha subito un incidente nella macchina e ha un dolore qui sulla schiena. And you got stiffness and it's difficult to move. E sei tutto bloccato ed è difficile per te muoverti. And you're gonna receive healing right now. E tu in questo momento ricevi guarigione. And you're gonna be able to bend over and touch your knees. E sarai capace di piegarti e di toccare le ginocchia. Are you ready right now? Sei pronto in questo momento? I'm gonna speak healing over you. Io voglio pregare guarigione su di te. And the moment I finish praying over you. E nel momento in cui concluderò la mia preghiera. Do what you couldn't do before. Fai quello che non potevi fare prima. If you had pain in your leg, move your leg. Se avevi dolore nella gamba, allora muovila. If you had stiffness in your back, move your back. Se eri bloccato sulla schiena, allora muovilo. Faith is a fact. Perché la fede è un fatto. That Jesus took your sickness 2,000 years ago. E il fatto è che Gesù ha portato le tue lividure, le tue malattie 2,000 anni fa. And faith is an act. E la fede è un'azione, un it's, fatto. It's action. Jesus said to the man, stretch out your hand. È un'azione. Gesù ha detto a quell'uomo, stendi il tuo braccio. And his arm was made well. E il suo braccio è guarito. So put your hand right now. Quindi, in questo momento, tocca la parte che ti fa male. Yeah, wherever you want Jesus to lay his hand. Dovunque tu vuoi che Gesù tocchi. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, that you're here right now. Grazie perché tu Lord, we welcome you. In questo momento, e Signore, noi ti diamo il benvenuto. By the authority of your name, Jesus. Con l'autorità del tuo nome, Gesù. I speak healing into everybody right now. Io confesso guarigione nel corpo di delle persone qui presenti. Every spirit of infirmity. Ogni spirito di infermità. Sickness and disease. Ogni malattia. Every pain in the name of Jesus. Ogni dolore nel nome di Gesù. I command you. Io ti comando. To go right now. Di andartene via in Come questo out. Momento. Adesso. Come out. Esci. In Jesus name. Nel nome di Gesù. You paralysis go. Il tuo non poterti muovere va I via. I declare healing in the name of Jesus. E io parlo e do guarigione nel spirit nome of infirmity di Gesù. Within the sound Ogni of my spirito. Voice. You Go right now in Jesus' name. In Jesus' name. In questo pain, momento, paralysis, nel nome di Gesù. Chronic disease. Go, go. In questo go, momento, go, ogni paralisi, go, ogni dolore. In Jesus' name. In questo momento, in Jesus nel nome name. Di Gesù. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Now miracles are happening right now. E miracoli stanno per succedere. Stanno do, succedendo. Do what you couldn't do before. Adesso fai quello che non potevi fare prima. If you had pain in your arms, swing it around. Se avevi dolore al braccio, allora muovilo, giralo. If you had a tumor, check, it's gone right now. Se avevi un tumore, controlla perché è andato via. Check and see what Jesus has done. E controlla, vedi quello che Gesù ha fatto. Move that back, touch your toes. E allora piegati, toccati il ginocchio, toccati i piedi, fai quello che non potevi fare prima. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Come on, somebody give Jesus praise. Perché non celebriamo Gesù? Non lo lodiamo. Hey, there's a healing presence here right now. Perché c'è proprio questa. There's a healing presence here right now. C'è questa presenza di guarigione. Somebody here right now. In questo momento qualcuno qui. I know we've gone over a few minutes. Let me just bring it to an end here. But lo so che siamo andati oltre il tempo. Vabbè, siamo per concludere. There is somebody who battles demons at night. C'è qualcuno che combatte contro demoni durante la notte. Yeah, at night time they come into your bedroom and durante la notte loro vengono nella tua stanza. And they torment you. E loro ti tormentano. And you know, who is that here tonight? Chi è? Chi è qui? Who's got somebody who's got demon problems? Chi è qui che ha questo tipo di problema con dei demoni? Don't be shy. There is a hand there. Right there. Could you come here? Puoi venire qui. Can you just come right up here? I'm not going to embarrass you or anything, but I want to pray with you. Non ti voglio mettere in imbarazzo, però voglio pregare per te. Because Jesus came to set you free. Perché Gesù è venuto per renderti libera. And are you ready to get free tonight? E tu sei pronta ad essere libera oggi? What's your name? Come ti chiami? Marilena. Marilena, is this what happens to you at night? E quindi questo è quello che succede la notte. Does it happen every night? E succede tutte le notti? Pretty much. Almost. Tonight's the last. It's the last night now. Però la scorsa notte è stata l'ultima. Okay, I want you to look in my eyes. Voglio che tu mi guardi. Because in me. Perché in me. Lives Jesus. Vive Gesù. And he looks at you. E lui ti sta guardando. And you belong to him. E tu appartieni a Gesù. And he loves you. E lui ti ama. He forgave you thousands of years ago. Lui ti ha per. You are perfect in his sight. Tu sei stata resa perfetta alla sua ai suoi occhi. Ti ha perdonato 2000 anni fa. You belong to Jesus. E tu appartieni a Gesù. The devil has no right. E il diavolo non ha nessun diritto. He's got no place. Non ha nessuno spazio. Okay, by the authority of the name of Jesus. E con l'autorità nel nome di Gesù. I speak to every power of darkness. Io parlo a tutte le potenze della tenebre. Within the sound of my voice. Che con il suono della mia voce. By the power of the name of Jesus. Con la potenza del nome di Gesù. I break the power of every chain. E io rompo ogni catena e ogni potenza di questa catena. Of every demonic influence. Di ogni potenza demoniaca. Go right now. In questo momento. By the power of the blood of Jesus. Nella potenza del sangue di Gesù. I declare freedom. Io ti dichiaro libera. In the name of Jesus. E parlo libertà nel nome di Gesù. Take your hands off her. Take your hands off her. Take your hands off her. Lasciala in questo momento nel nome di Gesù. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. I declare freedom. Libertà. By the power of the blood of Jesus. Nella potenza del sangue di Gesù. Come on, somebody give Jesus praise. Perché non lo diamo Gesù Never in questo again. Momento? You've got authority. Tu hai autorità. If Satan tries to come back. Se Satana cerca di tornare. You just say no in Jesus' name. Tu devi dire no nel nome di Gesù. He is under your feet. Perché lui è sotto i tuoi piedi. Amen. He's Amen. Under your feet. Lui è sotto i tuoi piedi. He can only have power over you. Lui può avere potenza su di te. If you let him. Solo se glielo permetti. Don't let him. E tu non glielo permetti. You are in Christ. Perché tu sei in Cristo. And Christ is in you. E Cristo è in te. Amen. Come Amen. On, somebody, give Jesus a shout. All right. One last thing. How many here tonight? Quanti di noi questa sera? You came with pain in your body. Tu sei venuto con un dolore nel tuo corpo. And just check your body right now. Controlla il tuo corpo. And you say the pain is gone. E tu puoi dire che il dolore è andato via. Something happened. Che qualcosa è successo. It's not there anymore. Non c'è più il dolore. Maybe you can move and now you couldn't move before. Forse tu non ti potevi muovere prima e adesso lo puoi. How many here tonight? Quanti oggi? Say something happened. Possono dire qualcosa è successo. Just something happened. Just if for everyone that something happened, raise your hand. Se puoi dire che qualcosa è successo, perché non alzi la tua mano? Let me see. Just put your hand way Io voglio up vedere se tu puoi sentire che qualcosa è successo. Over there, God bless you. What happened Alza to you? Alza la tua mano. Puoi dire che cosa and è over successo? There is somebody else. Awesome. Over there is somebody else. Come on, e somebody le mani give. Si stanno alzando. And over there is somebody else. Possiamo celebrare delle mani how si awesome stanno alzando. Is that? Awesome. What happened to you? Millie, che cosa è successo? Amelia, what happened to you? She had a very bad pain here. Yeah. And she couldn't move her neck. Okay, just move that neck around. How does that feel? Buono. Come on, somebody. Oh, awesome is that. Who had the pain in the back? Chi aveva quel dolore sul qui. Who had the pain schiena. In the back? Was that you back there? Eri tu? Were you in an accident or something? Hai subito un incidente? Hai fatto un incidente? No. So when you were 20, the doctors couldn't do anything. Quindi da quando avevi 20 anni, i dottori hanno detto che non si poteva fare niente. And move around like this. E adesso ti puoi muovere? Can you bend over and touch? Ti puoi, diciamo, toccare le ginocchia? Everything is good? Tutto bene, tutto funziona bene. Come on, somebody, how easy was that? How easy was that? Quanto è stato facile? Oh man, oh man. Somebody else. C'è qualcun altro? Who else? Something's happened. Qualcun altro. Just put your hand che up. Puoi dire what è happened? Successo qualcosa. Raccontaci. Arthritis. And it's good. Come on, somebody, give Jesus a praise. How easy was that? Awesome. Come on, Pastor Mirko. Hey, it's been an absolute joy to be with all of you. È stata una gioia assoluta essere qui con voi. And I don't think it's by accident that we met. E io non credo che sia una coincidenza che ci siamo conosciuti. Next month he's going to be with us in Calgary. Il mese prossimo Mirko sarà nella nostra chiesa in Calgary. Oh, our churches are connected now. Le nostre chiese adesso sono connesse. Amen. Amen. I look forward to being in Italy a lot more. E non vedo l'ora di essere da capo in Italia. And maybe this should be our home church, Madeline. Maybe this needs to be our home church. Forse ci dobbiamo proprio trasferire qua. God bless you. Thank you, everybody. Che Dio vi benedica. Grazie. Amen. Che Dio vi benedica. Grazie. Vado anch'io in Canada. È così bello vedere il corpo di Cristo, la Chiesa, in ogni parte del mondo che crede nello stesso Dio di miracoli, che ha lo stesso spirito di fede e che crede che la Chiesa è destinata non a morire, ma a crescere, ad avanzare e andare di gloria in gloria. E questo è incoraggiante, sapere che questo avverrà a Calgary sempre di più. Lo vogliamo credere insieme. Vogliamo benedire questi ministri, vogliamo benedire la loro chiesa e crederlo anche per noi qui a Modugno. Quindi vogliamo fare una cosa: stendi la tua mano dovunque ti trovi. Vogliamo benedire Anthony e Madeline, vogliamo pregare per la loro chiesa e credere che loro possano andare di gloria in gloria anche in Canada. Padre, insieme alziamo la nostra voce per ringraziarti per la connessione del tuo corpo, per ringraziarti che la chiesa è globale, perché la Chiesa appartiene a te e tu la fai andare avanti di gloria in gloria. Noi ti siamo grati per il pastore Anthony, per il pastore Madeline, e noi li vogliamo benedire nel tuo nome. Vogliamo chiedere che la tua forza, il tuo vigore, la tua fede possa accompagnarli ancora per andare di gloria in gloria nella loro città e in ogni parte del mondo dove tu li stai chiamando. Padre, noi benediciamo la Chiesa adesso a Calgary, che in questo momento sta adorando il tuo nome. Noi preghiamo che possa essere una chiesa che invade la città di Calgary e che la città di Calgary possa conoscere il tuo nome e molti giovani possano venire a conversione e tante famiglie possano uscire dalle tenebre ed entrare nella tua meravigliosa luce. Che il tuo regno avanzi, Padre, in ogni parte del mondo e che tu possa risplendere in Canada, in Italia, in Mozambico, in India, in ogni parte del mondo, nell'Africa, in Libia, in ogni parte del mondo, che la tua gloria possa essere manifestata e accompagnata da segni, miracoli e prodigi. Nel nome di Gesù preghiamo questo. Amen. Amen. Amen. Alleluia! Io voglio pregare ancora per chi questa sera dice: io voglio ricevere Gesù nella mia vita. Io voglio Gesù Gesù vero, io non voglio una religione, io non voglio una chiesa di appartenenza, anche se poi noi saremo felici di accoglierti nella nostra chiesa. Non voglio uno schema, non voglio un rituale nuovo, voglio Gesù nel mio cuore. voglio che Gesù perdoni i miei peccati e cambi la mia storia da stasera per il resto della mia vita. Vogliamo chiudere i nostri occhi? Se tu sei quella persona, ti posso chiedere di alzare la tua mano dovunque ti trovi, e se vuoi ricevere Gesù questa sera, alza la tua mano. La vedo, grazie, grazie, grazie. Ci sono diverse mani che si stanno alzando per ricevere Gesù questa sera ed è meraviglioso. Se c'è qualcun altro che dice anche nelle ultime file, io voglio Gesù nella mia vita, nel mio cuore, voglio rinnovare la mia scelta di dare la mia vita a Lui, alza ora la tua mano. Alleluia, bellissimo. Puoi abbassare ora la tua mano e ti chiedo di ripetere con me questa preghiera. La vogliamo ripetere insieme, accompagnando queste persone in preghiera. Ad alta voce ripeti con me: Signore Gesù, io ti chiedo di perdonare i miei peccati, di lavare il mio cuore, di lavare la mia mente e di darmi un nuovo inizio. Io ti voglio sperimentare nella mia vita e voglio un nuovo futuro con te. Vieni Gesù, ti invito nel mio cuore e nella mia vita. Amen, amen. Vogliamo fare un applauso a queste diverse persone. Molto bello, hai ripetuto una semplice preghiera, ma io ti invito a continuare a conversare con Gesù, perché adesso la tua relazione con Dio è ripristinata, i tuoi peccati sono perdonati e adesso hai la possibilità di vivere in questa relazione personale. Fai la tua preghiera a Lui, parla a Lui, Lui ti vuole ascoltare e vuole darti una nuova vita, te l'ha data, ti ha dato una nuova vita e questo è un nuovo inizio per te. Amen. C'è una battaglia spirituale che dobbiamo vincere ancora questa sera. Amen. Io voglio pregare per chi ancora questa sera dice: io voglio essere libero, libero dal male. C'è potenza nella preghiera che Gesù ha insegnato, non mi stancherò mai di ripeterlo. C'è potenza nella preghiera che Gesù ha insegnato, dicendo a noi che noi possiamo pregare a Dio: liberami dal male. Noi possiamo dire al Padre: Padre, liberami dal male. Tu non devi uscire da questa sala per andare a ritrovare i demoni della tua vita e della tua quotidianità. Tu non devi uscire da questa sala e dire: oh, che è stata una bellissima serata, ma ora devo ritornare alla mia vita, al mio lavoro, alle mie circostanze in casa, in famiglia. No, tu puoi uscire da questa sala e sapere che sei libero dal male, perché Gesù ti libera dal male completamente. Io sento che devo pregare per qualcuno ancora che questa sera dice: io voglio essere libero dal male. C'è qualcuno? Se sei quella persona, alza le tue mani, tutte e due le tue mani. Voglio pregare affinché tu possa essere libero, libero da ogni catena. Abbiamo cominciato questa sera dicendo che Gesù libera dalle catene, libera dalla prigione, e tu puoi essere libero dalle tue prigioni. E Gesù ti libera da ogni demone, Gesù ti libera da ogni male. E noi lo crediamo con te, noi abbiamo fede che Gesù è potente da liberarti dal male, ora, ora. E quindi se non hai alzato le tue mani significa che sei libero e puoi pregare, allora ti chiedo di pregare. Avvicinati a chi ha le mani alzate, stendi le tue mani e comincia a pregare affinché ognuna di queste persone sia libera dal male. Noi abbiamo fede che Gesù libererà questa sera dal male. Forza, stendiamo le nostre mani, avviciniamoci a chi ha alzato la sua mano e intercediamo affinché ci sia libertà dal male nel nome di Gesù, libertà dai demoni nel nome di Gesù.